Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione che racconta il mondo dal punto di vista di tutti gli animali e in particolare degli animali non umani. Il nostro è un punto di vista animalista, antispecista e vegan, teso verso la costruzione di una società che aspira alla non violenza. Questa settimana parleremo di tori e di elefanti, di scelte politiche discutibili, di salvataggi spericolati. Mare, mare, mare, io voglio annegare. Tu portami lontano a naufragare. Nei giorni scorsi a Palma di Mallorca, capoluogo della comunità autonoma delle Isole Baleari, in Spagna, si è tenuta una corrida, per la prima volta da quando il governo regionale aveva deciso di vietarla nel 2017. Il passo indietro sotto il profilo normativo è legato a una decisione dell'Alta Corte spagnola, secondo cui il governo regionale ha superato le proprie competenze, vietando una manifestazione che è considerata uno spettacolo e parte del patrimonio culturale spagnolo. La tradizione, insomma, non si tocca. La ripresa della corrida ha naturalmente infiammato gli animi. Sono accorsi a Palma di Mallorca i più accesi sostenitori di questa pratica, mentre circa 400 attivisti hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti all'arena. C'è stato anche un tentativo di disturbare la corrida, ma il manifestante che ha cercato di raggiungere il torero è stato subito bloccato. Nonostante il giudizio dato dall'Alta Corte sul caso delle Baleari, ricordiamo che la corrida è vietata in altre parti della Spagna, nelle Isole Canarie fin dagli anni 90, in Catalogna dal 2010. Nell'insieme, il numero delle corride in Spagna è molto diminuito negli ultimi anni. Nel 2007 erano state 3.651, nel 2018 1.521. Ovviamente attorno alla questione della corrida, tradizione per gli uni, anacronistica barbarie per gli altri, si condensano anche divisioni politiche. E proprio a Palma di Mallorca, l'altro giorno, mentre il torero si esibiva, i sostenitori di questo tipo di manifestazioni hanno cantato, oltre all'inno nazionale, anche Cara al Sol, un noto canto fascista. Fra loro c'era anche Jorge Campos, leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, che ha detto di essere arrivato a Palma di Mallorca per manifestare il suo pieno sostegno alla corrida. Alle Baleari, chi parteggia per i tori e vorrebbe abolire le corride ha incassato indubbiamente una sconfitta, ma la questione culturale e politica, naturalmente, è ancora più che aperta. spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto. Come ormai sappiamo, la vita degli animali selvatici sul pianeta Terra è sempre più difficile a causa della riduzione degli habitat naturali e per la pressione degli appetiti di mercato. Ci sono specie di animali molto presenti nell'immaginario collettivo, pensiamo alle tigri, i leoni, gli elefanti, le giraffe, che sono ormai a rischio di estinzione e che potrebbero a breve rimanere solo nei libri di scuola e in qualche documentario destinato a invecchiare presto. Ci sono per fortuna azioni in corso per invertire la rotta, una rotta a dire il vero che ancora non è cambiata di molto, e comunque a Singapore, ad esempio, si è deciso di mettere al bando il commercio di avorio, sia pure solo a partire dal 2021. La decisione è stata presa dopo 2 anni di consultazioni con tutte le parti in causa, rivenditori, privati cittadini, gruppi ambientalisti. Il mercato asiatico è quello che più assorbe l'avorio, commerciato ormai in modo clandestino. La Cina, dove il bando vige dal 2017, e il Vietnam sono i paesi dove più alta è la richiesta di avorio, utilizzato per gioielli, amuleti e ornamenti. È un mercato questo che alimenta la caccia degli elefanti, soprattutto in Africa, e la pressione del mercato è così forte che i divieti e le misure di protezione possono ben poco, tanto sono forti questi interessi. Proprio a Singapore a fine giugno è stato messo a segno uno dei più grandi sequestri d'avorio mai eseguito. È stato sequestrato un carico che conteneva oltre 9 tonnellate di avorio, costate la vita a almeno 300 elefanti. Il carico veniva dal Congo ed era diretto in Vietnam. L'annuncio della messa al bando dell'avorio a Singapore è arrivato in occasione della giornata mondiale dell'elefante, quando è tempo normalmente di fare dei bilanci. Ebbene, va ricordato che la messa al bando ufficiale internazionale dell'avorio è del 1990 ed è scaturita dal rapido declino subito dalla popolazione di elefanti africani. Una popolazione passata dai diversi milioni di individui registrati alla metà del XX secolo ai 600.000 censiti alla fine degli anni Ottanta. E nel corso degli ultimi 30 anni la situazione non è certo migliorata. Mare, mare, mare, voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Wonderful summer on a solitary beach, against the sea, the seagull. Abbiamo parlato nelle settimane scorse dei consumi di carne come emergenza ambientale nel mondo. È sempre più chiaro che la riduzione delle emissioni di gas nocivi passa attraverso un forte cambiamento delle abitudini alimentari nei paesi occidentali e in quelle nazioni come la Cina e l'India che negli ultimi anni hanno cominciato ad imitarli. Senza un passaggio immediato e rapido a un'alimentazione con una maggioritaria componente vegetale, qualsiasi proposito di intervento sulla emissione dei gas serra nell'atmosfera è destinata a fallire. I governi, cioè, dovrebbero impegnarsi in intense campagne di informazione e persuasione per convincere le popolazioni a riprendere abitudini alimentari più sobrie e salutari e intanto avviare una corrispondente opera di riconversione economica, abbandonando il sistema degli allevamenti e l'economia collegata. Si tratterebbe evidentemente di un'operazione enorme e tuttavia possibile, perché i governi che volessero intraprenderla potrebbero alla lunga contare sul consenso della gente, che non tarderebbe ad accorgersi che un'alimentazione prevalentemente vegetariana sarebbe utile alla collettività e anche al benessere individuale. A quelli come noi, che si nutrono di soli vegetali da tempo e per una più profonda esigenza di giustizia, una giustizia verso gli animali, queste argomentazioni paiono del tutto limitate e insufficienti, se non addirittura offensive, visto che non prendono in considerazione la sorte degli animali, la loro sofferenza la loro aspirazione a vivere, semplicemente vivere. E tuttavia l'agenda politica propone in questa fase storica un'apertura alla questione animale in chiave ambientale. E con questo tocca fare i conti. Preoccupa che alla crescente consapevolezza diffusa fra gli scienziati non corrisponda un analogo comportamento fra i decisori politici. Non si intravedono, insomma, ancora campagne e iniziative serie per passare a una alimentazione prevalentemente vegetariana. L'ultima notizia, apparentemente coerente con questa prospettiva, arriva dalla Germania, dove si starebbe pensando di portare dal 7 al 19% l'IVA sulla carne. I partiti che sostengono questa ipotesi, in particolare socialisti e verdi, parlano di ragioni di protezione del clima, ma il surplus di gettito fiscale, a quanto pare, sarebbe in realtà destinato al cosiddetto benessere animale, cioè a interventi sugli allevamenti per renderli meno atroci, più sopportabili per chi vi è rinchiuso. Come si vede, siamo in realtà lontanissimi dalle politiche che sarebbero necessarie, e anzi c'è da chiedersi se simili provvedimenti non siano in realtà controproducenti per la confusione che creano. C'è cioè il rischio che qualcuno pensi che davvero un aumento dell'IVA e un miglioramento, sia pure parziale, degli allevamenti servono a combattere la crisi climatica. Non è così, e l'abbiamo detto più volte. Nel mondo politico questo è il momento del coraggio. L'emergenza climatica si affronta cambiando fortemente il sistema produttivo e le abitudini di consumo, non con modesti interventi sulle tasse o con piccole simili iniziative accompagnate magari da tranquillizzanti campagne di marketing politico. Il quotidiano britannico Guardian, che ha dedicato un articolo alla tassa sulla carne in Germania, riferendo anche del surreale dibattito politico in corso, ha fatto notare che secondo uno studio dell'Università di Londra, i consumi di carne nel mondo occidentale, per evitare il disastro climatico, dovrebbero ridursi dell'80%. Altro che IVA. Oggi la scelta musicale è monotematica. Una canzone che parla di mare, estate e spiaggia solitaria. Il brano è uscito nel 1981 e a pensarci bene è quanto mai attuale, in quest'estate di navi bloccate al largo, di sbarchi, di gente disperata che annega in cerca di un futuro migliore, di politica fatta sotto l'ombrellone, di mare di plastica, di delfini che muoiono, di ecosistema in tilt. Così la canzone di Battiato, Summer on a Solitary Beach, diventa estremamente attuale e ci invita a sperare in un mondo migliore. Durante la puntata avete sentito assaggi di varie versioni e ora invece godetevi una porzione dell'originale. mare voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Questa trasmissione mette al centro gli animali non umani, che cerchiamo di raccontare sia in termini generali, attraverso il rapporto fra il loro mondo e il nostro, sia a livello individuale, convinti come siamo che ogni animale abbia una propria biografia e una propria personalità. Nel corso del tempo abbiamo avuto l'opportunità di proporre innumerevoli storie di singoli animali e anche di gruppi di animali. Ve ne riproponiamo una presa dal nostro archivio. Riguarda il salvataggio di un gruppo di tartarughe d'acqua. Animalisti rischiamo di assuefarci a sentire storie di animali senza lieto fine. Per questo motivo oggi siamo particolarmente orgogliosi di raccontarvi una storia diversa. La storia inizia con una serie di tristi abbandoni che coinvolgono ben 99 individui animali e finisce con una grande liberazione. Stiamo parlando di un animale tra i più umili, silenziosi e invisibili. Stiamo parlando di 99 tartarughe acquatiche, abbandonate da privati cittadini nelle vasche e nelle fontane del Parco delle Cascine di Firenze. A questi 99 animali Silvio Melandri, un cittadino volonteroso, attento e sensibile, ha regalato un futuro. Un giorno per caso sono entrato nel recinto ex zoo, ho visto delle tartarughe e continuando a passarci quasi tutti i giorni ho notato l'impossibilità di salire sui bordi perché le vasche sono di cemento, non erano fatte ovviamente per le tartarughe e mi è venuto voglia di costruire una piccola rampa in legno e da quel giorno passando quasi regolarmente tutti i giorni ho visto con piacere che questi animali salivano, stavano su al sole come deve essere per tutti i rettili. Purtroppo poi è arrivato l'inverno con il freddo, ho notato che questi animali non potevano andare in letargo, diciamo giustamente, non potevano fare autoibernazione essendoci la vasca di cemento, non avendo la terra, per cui con il primo caldo di gennaio, questi 3-4 giorni di caldo, le tartarughe probabilmente hanno sentito la variazione, sono venute fuori e poi l'ondata di freddo è arrivata dopo qualche giorno con temperature prossime allo zero, le ha fatte morire praticamente di freddo, non tutte ma una parte delle tartarughe, quelle che erano purtroppo per loro venute fuori. Sì, ho segnalato al centro che si occupava appunto di questi animali che c'erano queste tartarughe morte, ho preso la decisione di tirarle fuori dall'acqua per evitare che potessero far morire magari anche le altre tartarughe per salmonellosi e cose del genere. A quali enti ti sei rivolto? Il canile del centro animale di Lugnano che si occupava di queste tartarughe, a quel punto ho contattato loro e poi ho mandato anche una lettera, una mail all'EMPA perché potessero venire a occuparsi di questi animali qui. In effetti, dopo qualche giorno, gli animali morti sono stati tolti. Ma c'è ancora un'altra persona che è stata fondamentale in questa vicenda. Riccardo Gabbanelli ha mandato un'email alla emittente radiofonica Controradio e a quel punto la grande mobilitazione di persone ha portato anche a trovare il centro ittiologico del Trasimeno, il cui direttore, il signor Dolciami, ci ha gentilmente promesso di accogliere le 99 tartarughe a titolo gratuito. A questo punto mancava solo l'autorizzazione del comune a compiere il trasferimento che eravamo disposti a effettuare in prima persona noi come privati. Tutto è partito da lì, abbiamo cercato appunto di fare le cose per bene. Io sono tornato là al centro degli animali chiedendo come si poteva fare per poter spostare queste tartarughe. Loro mi hanno detto ovviamente mi dovevo collegare con l'assessore all'ambiente di Firenze. E insieme siamo andati a parlare con la direzione ambiente del comune di Firenze. Ci siamo trovati là con voi di Controradio per poter poi prendere l'iniziativa e spostarle. Alberto Santelli, un attivista, amico della trasmissione Restiamo Animali, ha messo in connessione noi, la forestale e la VAB. Siamo riusciti a portare fino in fondo il salvataggio di questi animali. Questo però ce lo puoi raccontare solo tu, perché sei stato l'unico di noi ad assistere al felice epilogo. Prima cosa ho cominciato a preparare una serie di scatole di varie misure che potevano essere pronte per spostare queste tartarughe. La mattina in cui eravamo tutti insieme già pronti per fare questo spostamento, abbiamo messo le tartarughe, una buona parte nelle scatole belle predisposte, soprattutto le più piccole e le medie, quelle grosse in vasche più grandi. Due persone della forestale, quattro del canile più la persona a capo di tutto, e nemmeno un retino per recuperare le tartarughe. No, né retino né stivali né guanti. Se non c'eri tu che preparavi le scatole, non c'erano neanche contenitori. No, poi li abbiamo messe sul furgone della VAB e siamo partiti alla volta di Sant'Arcangelo di Magione. Siamo arrivati dopo due ore a questo centro presso il lago Trasimeno, grazie al direttore Dolciami che ci aspettava. Silvio, come si sono comportate le viaggiatrici? Tre o quattro di loro sono riuscite a uscire dal coperchio, stavano vagando per il cassone del furgone e appena siamo arrivati erano tutte lì sul bordo pronte già a scendere. Sembrava aspettassero apposta e aprissimo, che sono state le prime a essere prese e messe nell'acqua. Descrivici questo posto. Un centro che è nato per il ripopolamento della fauna del lago Trasimeno, dove tengono gli avannotti di 4-5 specie di pesce e fortunatamente, avendo molte vasche a disposizione, hanno potuto dedicare un paio di vasche alle tartarughe e presto ne stanno aprendo delle altre. Le nostre 99 amiche sono in un buon posto per la vita che gli resta da vivere? Sono in un posto tenuto molto bene, sono in compagnia in questo momento di altre 500 tartarughe, la vasca è molto grande. Tartarughe non dovrebbero esserci qui da noi perché sono originarie dell'America, però vengono importate anche legalmente, in parte anche legalmente, perché non c'è il divieto della vendita di questi animali. Vengono vendute molto molto piccole, pesano pochi grammi, non costano niente, però quando crescono sono impossibili da tenere, almeno uno non abbia un giardino enorme con un laghetto abbastanza grosso. Possono vivere, se tenute bene, sui 30-35 anni e si riproducono anche con una certa frequenza. È un problema che hanno in tutta Europa, fermare il tutto è difficile finché non faranno una legge che si potrebbe fare anche velocemente per vietare l'importazione di tutti questi tipi di tartarughe. Te Silvio, come persona, che cosa hai imparato da questa esperienza? C'è un bel mondo che ci circonda e che ci sono tante persone che quando si mettono insieme con la volontà aiutano anche disinteressatamente, perché nessuno trae un guadagno dall'aver fatto quello che si è fatto se non una soddisfazione personale. Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. E nel pomeriggio, quando il sole ci nutriva, settimana il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ci propone una ricetta che si pone in sintonia con il resto della puntata. Sentiamo che cosa ha selezionato per questo appuntamento di metà agosto. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Amore, chi ti offende, chi non sa il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca, limpido quando ci conoscevo. Con questo caldo, specialmente in cucina, ci si squaglia proprio come un ghiacciolo. Quindi, per restare in tema, ecco a voi la ricetta dei ghiaccioli al ginger. Gli ingredienti sono una bella radice di zenzero fresco, mezzo litro di acqua, succo e la scorza di un limone non trattato, 100-150 g di zucchero di canna o altro dolcificante. Mettete lo zucchero di canna nel succo di limone e lasciatelo sciogliere. A parte, sbucciate la radice di zenzero e tritatela. Unitela a mezzo litro di acqua e fate bollire. Togliete dal fuoco e aggiungete le scorze di limone e fate raffreddare a temperatura ambiente prima di far riposare il tutto un'ora in frigorifero. A questo punto filtrate l'acqua dallo zenzero e le scorze di limone e unite il succo di limone e a piacere qualche foglia di menta. Potete servire già in questo modo un'ottima bevanda rinfrescante, magari aggiungendo qualche cubetto di ghiaccio. Ma potete anche fare un passaggio ulteriore versando il liquido in appositi stampi da ghiacciolo, oppure anche vasetti vuoti di yogurt di soia. Inserite uno stecco centrale e fate congelare in freezer, magari aggiungendo qualche fragolina di bosco, ribes o mirtillo, e servite un bel ghiacciolo tonificante. Fu nefasta e temibile l'età del tempo, di profonda e irrimediabile povertà, quando ancora non si distingueva l'aurora dal tramonto, quando l'aria della prima origine, mischiata torbida e instabile umidità, al fuoco ed alla furia dei venti, celava il cielo e gli astri. Come può la vista sopportare l'uccisione di esseri che vengono scozzati e fatti a pezzi? Non ripugna il gusto per né gli umori e il sangue, le carni agli spiedi crude. E c'era come un suono di vacche, non è mostruoso desiderare di cibarsi. Per questa settimana è tutto, speriamo di avervi offerto informazioni interessanti e spunti di riflessione utili. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, che è composta da Francesca De Matteis, Roberta Marino, Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. A risentirci fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.